E ti ricordi di noi che eravamo in tanti, insieme a tutti quanti sognavamo i contanti. Ma mangi, sì, ed è la stessa vita, ognuno l'ha affrontata come una sfida. È qua che sono cresciuto, è qua che sono nato, se è qua che ancora vivo, è dove ho sperato di non essere cambiato per avere una chance, per poter combattere ed avere dei fans. Non mi sento adulto, per questo neanche uomo. Molte volte è difficile chiedere perdono, ma mi dispiace, ma forse è meglio così. Dopo tanti errori, beh, è nato Sitch, con pregi, difetti, con milioni di pare. Ma senza esse non sarei qua a cantare, per lottare, per gridare, per smettere di odiare chi ha rotto un cuore, chi non sa amare. Con pregi, difetti, con milioni di pare. Ma senza esse non sarei qua a cantare. La mia vita sono io, la tua vita qua sei tu. Anche se sbagli, zio, non buttarti giù. Con pregi, difetti, con milioni di pare. Ma senza esse non sarei qua a cantare. La mia vita sono io, la tua vita qua sei tu. Anche se sbagli, zio, non buttarti giù. Sono come te che sta ascoltando. Sono come te ma con più di un rimpianto. Perché forse è vero, ma questo non l'ammetto. Sono l'immagine che nel tuo riflesso. Questo testo va a chi ha creduto in noi, ai più grandi che erano i nostri eroi. Perché a testa bassa e guarda l'asfalto. Per chi non l'abbassa mai ma guarda sempre in alto. Perché è rimasto eternamente bambino. Perché rinchiuso i pensieri dentro un comodino. Perché è adolescente ed appena innamorato. Per chi come me e non rinnega il passato. Amato, sai, ma vivo ancora in questa strada. Torino è la mia vita, se Venezia è la mia casa. Sono pieno di forze e tu lo sai. Con NBK al viso non ci fermeremo mai. Con pregi, difetti, con milioni di pare. Ma senza esse non sarei qua a cantare. La mia vita sono io, la tua vita qua sei tu. Anche se sbagli, zio, non buttarti giù. Con pregi, difetti, con milioni di pare. Ma senza esse non sarei qua a cantare. La mia vita sono io, la tua vita qua sei tu. Anche se sbagli, zio, non buttarti giù. Spero di continuare questo sogno. Giorno dopo giorno mi descrive in un foglio. Ma sembra strano, ma credevo veramente che sarebbe durata, beh, forse per sempre. Troppe parole per non dire niente, ma una può bastare a fregare la mente. Magari ho cancellato qualche immagine e forse ho saltato alcune pagine. Lo sai che ci ripenso raramente. Molte volte il ricordo che uccide la gente. Ripenso, ripenso a casa mia. Ripenso, ripenso a quella nostalgia mia e tua, sai. Ed è il gruppo mio di chi ci ha lasciato con un addio. La mia vita sono io, la tua vita qua sei tu. E tutto il resto, zio, ora non c'è più. Con pregi, difetti, con milioni di pare. Ma senza esse non sarei qua a cantare. La mia vita sono io, la tua vita qua sei tu. Anche se sbagli, zio, non buttarti giù. Con pregi, difetti, con milioni di pare. Ma senza esse non sarei qua a cantare. La mia vita sono io, la tua vita qua sei tu. Anche se sbagli, zio, non buttarti giù. Buttarti giù.